One, two, three, four, ora che sei grande, finalmente puoi potere tutto il mondo e farti cazzi tuoi. E urlare, bestemmiare, sputtanare quelli che non sono belli e forti, non sono come te. Adesso accendi la TV e diventa come loro. In testa non ha niente ma al polso l'orologio d'oro. Sì, ma io voglio toccare il cielo tenendo i piedi per terra. E credo nell'amore, l'amore che vince ogni guerra. E tu, fratello, non mi fermerai. Quel posto in banca che t'ha dato tuo papà. Chi viene da ladro per campare, per te è un delinquente. Ti rubano il lavoro e in cambio non ti danno niente. Basta con le paranoie, non pensare a quel che fai. Per goderti la tua vita conta solo ciò che hai per te. Ma io voglio toccare il cielo tenendo i piedi per terra. E credo nell'amore, amore che vince ogni guerra. E tu, fratello, non mi fermerai. E tu, fratello, non mi fermerai. Atti osceni!